Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, l'Europa oggi riparte, come spesso facciamo da Bruxelles, ma con la visita di John Kerry. In questi giorni stiamo raccontando di fatto gli ultimi missioni, gli ultimi fuochi della presidenza e le molte complessità della presidenza Obama. Naturalmente questo riguarda anche il suo segretario di Stato. Oggi lui a Bruxelles ha parlato, come avete sentito un attimo fa, ha sollevato interrogativi circa il futuro della Turchia nell'Alleanza Atlantica, un tema davvero estremamente delicato che riguarda comunque non solo la Turchia ma la sicurezza dell'Europa. Ma ha parlato anche di TTIP, quindi il trattato di libero scambio euro-americano. La priorità di Obama, ha detto appunto John Kerry, è proprio quella di chiudere il TTIP entro l'anno, insomma entro la sua presidenza, che come sapete scade alla fine dell'anno perché l'elezione avviene in novembre, ma il presidente è in carica anche dopo. Ma un dossier insomma da chiudere secondo John Kerry, perché ribadisce di essere pronto e ha già annunciato che farà campagna in Europa in autunno, perché se la gente conosce i fatti, dice, ci sarà un'opportunità di andare avanti. Questo è un modo evidentemente da parte del segretario di Stato per rispondere ai molti dubbi sollevati in Europa, anche in Italia, su appunto alcuni aspetti di questo importantissimo trattato. Ma adesso torniamo all'apertura, quello che è il tema principale in queste ore che si sta affermando, lo è naturalmente quello del terrorismo, lo è anche quello delle relazioni appunto tra la Turchia e l'Europa. Allora partiamo da un servizio che ha realizzato Anna Marino. Dopo il fallito golpe in Turchia, i timori si fanno più pesanti anche sui trattati tra Europa e Ankara, in particolare sui migranti. In seguito all'ultimo attentato all'aeroporto di Istanbul, Ankara e Bruxelles hanno comunque proseguito i loro negoziati per l'inclusione della Turchia nella famiglia dell'Unione Europea, cominciati nell'ottobre 2005. Ma oggi si fa più dura la situazione della Turchia a seguito del fallito tentativo di colpo di Stato di venerdì notte. Situazione tra i temi, oltre al terrorismo e l'attacco a Nizza, sul tavolo del Consiglio degli affari esteri odierno, presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, che avverte. I ministri degli esteri europei oggi lanceranno un forte messaggio sul fatto che il rispetto dello Stato di diritto e il sistema di divisione dei poteri deve essere protetto e rispettato per il bene della Turchia. Sugli stessi temi, colazione di lavoro con John Kerry, prima partecipazione di un segretario di Stato americano ai lavori dei ministri europei e prima volta anche per il neo ministro degli esteri della Gran Bretagna, Boris Johnson, che aveva espresso la sua solidarietà al governo turco, ma ora parla di importanza dell'equilibrio e del controllo nella regione. Il ministro degli esteri francese Jean-Marc Ayrault dice: la Francia ha condannato il golpe, ma allo stesso tempo dobbiamo vigilare perché le autorità turche non mettano in piedi sistemi non democratici dopo i progressi fatti finora. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, una situazione a dir poco fluida, con una Turchia ad altissima tensione e con un'Europa combattuta, come spesso accade, nelle diversità degli interessi. Da una parte un paese con il quale, e una leadership con il fronte del quale si ha una difficoltà di relazione di comunicazione, nello stesso tempo un paese che ha un ruolo centrale in termini militari, dunque la NATO, lo ricordiamo, il secondo esercito della NATO dopo gli Stati Uniti, ma anche e soprattutto per l'Europa in termini di immigrazione. Tutto questo dunque un mix da maneggiare con estrema cura. Prima però di lasciarvi vorrei segnalarvi l'arrivo di un pacchetto anticrisi da 500 milioni di aiuti straordinari per gli agricoltori, destinato soprattutto agli allevatori del settore del latte. Lo ha presentato questa mattina la Commissione UE e, salvo opposizione del Consiglio e Parlamento, i fondi dovrebbero essere resi disponibili molto rapidamente. Di questi, 150 milioni costituiscono un fondo per incentivare la riduzione della produzione di latte, con un obiettivo di 1,4 milioni di tonnellate in meno a livello europeo. Insomma, un altro dei grandi dossier da anni aperti sulla capacità produttiva e sulle extra capacità produttive, e dunque su tante polemiche che anche in Italia hanno appunto colpito direi migliaia di produttori. Bene, con questo è tutto per adesso. Quando sono le 14:06 minuti 20 secondi, gli aggiornamenti adesso naturalmente con la nostra pagina sportiva. Tutti convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.